A Milano non crescono fiori, in quei prati che prati non sono, sono finti e non hanno profumo, sotto un cielo che cielo non è. Ma dove? L'altra sera volevo baciarti, non ho potuto farlo perché, perché ci presero nome e cognome in un prato.